Uè, dottor Clapis, perché non fai un po' di musica hip hop? È di tendenza? Ma no, io vado da Fabro Fibra e Martello. Fabro Fibra si muove come un cobra. Fibra Fabro mi ha morsicato il labbro. Fabro Fibra si muove come un cobra. Fibra Fabro mi ha morsicato il labbro. Ma quale commerciale, ma quale ritornello, ma quale concettuale, con Fabro Fibra io. Martello, martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul... Per Fabro Fibra non esiste estetica. Per le ragazze usa la sega elettrica. E se per caso c'è un problema di metrica, si fa un cannone con la fiamma ossidrica. Fabro Fibra si muove come un cobra. Fibra Fabro mi ha morsicato il labbro. Fabro Fibra si muove come un cobra. Fibra Fabro mi ha morsicato il labbro. Ma quale commerciale, ma quale ritornello, ma quale concettuale, con Fabro Fibra io. Martello, martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul più bello. Martello, martello, martello sul... Nell'officina inizia a fare il breaker. Balla la ritmica del suo pacemaker. Batte il martello e non si annoia mai. Ma sotto sotto pensa sempre a lei.